Il colera mieteva la povera gente con la falce. A Regalbuto, a Leonforte, a San Filippo, a Centuripe, per tutto il contado e anche dei ricchi. Il parroco di Canzirrò, che era scappato ai primi casi e veniva soltanto in paese per dir messa a sole alto, l'aveva pigliato nell'ostia consacrata. A Don Pepè, il mercante di bestiame, gliel'aveva dato invece in una presa di tabacco, alla fiera di Muglia, un sensale forestiero, per conchiudere il negozio, diceva lui. Cose da far rizzare i capelli in testa. Avvelenata persino la fontana delle quattro vie, bestie cristiani vi restavano là. A Rosegabella, 20 case, un bel giorno era capitato il merciaiuolo di quelli che vanno in giro con le scarabattole in spalla. E quanti misero il naso fuori per vedere, tanti ne morirono, fin le galline. Ciascuno badava quindi ai casi propri, con lo schioppo in mano, appiattato dietro l'uscio, accanto alla siepe, bocconi nel fossatello, per le fattorie, nei casolari, dappertutto. Quelli di San Martino s'erano anche armati, uomini e donne. Volevano morire piuttosto di una schioppettata o d'altra morte che manda Dio, ma il colera no, non lo volevano. Nonostante, lo scomunicato male andavasi avvicinando di giorno in giorno, tale e quale come una creatura col giudizio che faccia le sue tappe di viaggio senza badare a guardie e a fucilate. Oggi scoppiava a Catena Vecchia. Il giorno dopo si sentiva dire che era alla Broma, 5 miglia soltanto da San Martino. Una povera donna, gravida di 6 mesi, per aver aiutato certa vecchia che le era caduto l'asino dinanzi alla sua porta e fingeva di piangere, disperarsi, era stata presa da dolori quasi subito ed era morta, lei e il bambino, sangue d'innocente che grida vendetta dinanzi a Dio. La sera, da quelle parti, chi aveva il coraggio di arrischiarsi sino in cima alla salita, vedeva dietro la china che nasconde il paesetto i fuochi e i razzi avvelenati che sembravano quelli della festa del Santo Patrono, tutti col capitombolo verso San Martino. E il domani, poi, si trovavano le macchie d'unto per terra e lungo i muri, e qua e là si sussurrava dei rumori strani che si udivano la notte. Gatti che miagolavano come in gennaio, tegole smosse, quasi tirasse il maestrale, gente che aveva udito bussare all'uscio dopo la mezzanotte, niente meno, e dei carri che passavano per le stradicciuole più remote come delle macchine asmatiche che andavano strascinandosi di porta in porta, soffiando e sbuffando. Il Signore ce ne scampi liberi. Il venerdì, verso mezzogiorno, Agostino, quello delle lettere, era tornato dal rilievo della posta con la borsa vuota e tutto stravolto. Sua moglie, poveretta, al vederlo con quel viso si cacciò le mani nei capelli. «Ma che avete fatto, scellerato? Dove l'avete preso tutto quel male in un momento?» Egli non sapeva dirlo. Laggiù, arrivato al ponte, s'era sentito stanco tutto a un tratto e s'era seduto un momento sul parapetto. Prima di lui c'era seduto un viandante, il quale si asciugava il sudore con un fazzoletto turchino. Don Domenico, il fattore, l'aveva predicato tante e tante volte di badare soprattutto a certe facce nuove che andavano intorno per le vie e nelle chiese perfino. Potevate sospettarlo, nella casa di Dio. Cavavano fuori il fazzoletto, finta di soffiarsi il naso, e lasciavano cadere certe polverine invisibili che chi ci metteva il piede sopra poi, per sua disgrazia, era fatta. Il giorno stesso, a precipizio, chi aveva qualche cosa da portar via e un buco dove andare a rintanarsi, in una grotta, fra le macchie dei fichi d'India, nelle capannucce delle vigne, era fuggito dal villaggio. Avanti il somarello, con quel po' di grano e di fave, il cesto delle galline, il maiale dietro, e poi tutta la famiglia, carica di roba. Quelli che erano rimasti, i più poveri, da principio avevano fatto il diavolo, minacciando di sfondare le porte chiuse e bruciare le case dei fuggiaschi. Poscia erano corsi a tirar fuori dal magazzino tutti i santi del paese, come quando si aspetta la pioggia o il bel tempo. L'addolorata, coi 7 pugnali di stagno, San Gregorio Magno, tutto una spuma d'oro. San Rocco miracoloso che mostrava col dito il segno della peste sul ginocchio. All'ora della benedizione, nel crepuscolo, quelle statue ritte in cima all'altare buio facevano arricciare i peli anche ai più induriti peccatori. Si videro delle cose allora da far piangere di tenerezza gli stessi sassi. Vito Sgarra che si divise dalla sorda con la quale viveva in peccato mortale da 10 anni. Padre Giuseppe Maria a far la croce sul debito degli inquilini che proprio non potevano pagarlo. Angelo il Ciaramidaro, andare a messa e a comunione come un santo, senza che gli sbirri gli dessero noia, e la notte dormire tranquillo nel suo letto, con la disciplina irta di chiodi e insanguinata al capezzale, accanto allo schioppo carico che ne aveva fatte tante. Misteri della grazia, come diceva il predicatore. Tutta la notte, in fondo alla piazzetta, si vedeva la finestra della chiesa illuminata che vegliava sul villaggio. E di tratto in tratto udivasi martellare la campana, alla quale rispondeva da lontano una schioppettata, poi un'altra, una fucilata che non finiva più, pazza di terrore, e si propagava per le fattorie, per i casolari, per le ville, per tutta la campagna circostante dove i cani uggiolavano sino all'alba. La domenica mattina, spuntava appena l'alba, si vide una cosa nuova nel prato della fiera, appena fuori dal villaggio. Era come una casa di legno su 4 ruote, con certe figuracce brutte dipinte sopra, e lì vicino un vecchio Carponi che andava cogliendo erbe selvatiche. I cani avevano dato l'allarme tutta la notte, e quelli del maniscalco che stavano da quelle parti non s'erano dati pace, quasi avessero il giudizio. Erano poveri diavoli di comici che si tiravano dietro la loro casa al par della lumaca. In paese, uno, con la faccia stralunata, raccontava come Zanghi avesse acchiappato il male nella baracca dei commedianti. L'aveva visto lui coi suoi occhi, il vecchio che lo tirava per la falda del vestito perché gli pareva che volesse passare a scappellotto. Anche comare Barbara, che pur non si era mossa di casa. Allora la folla, quasi fosse corsa una parola d'ordine, si mosse tutta come una fiumana, gridando e minacciando. Quelli del baraccone stavano facendo cuocere 4 fave a ridosso del muricciuolo, seduti sulle calcagna per covar la pentola con gli occhi, tutta la famiglia. A un tratto udirono gridare «Dalli! Dalli!» e videro la folla inferocita che correva per sbranarli. «Signori miei, siamo poveri diavoli, poveri commedianti che andiamo intorno per buscarci il pane!» Il vecchio annaspava con le mani per far intendere le sue ragioni. La donna copriva i figlioletti con le ali come una chioccia, la giovinetta con le braccia in aria. Arrivò una prima sassata che fece colare il sangue, poi un parapiglia, la gente in mucchio accapigliandosi, gli strilli delle vittime che si udivano più forte. «No, no, non li ammazzate ancora, vediamo prima se sono innocenti, vediamo prima se portano il colera!» C'erano pure delle anime buone in quella ressa. Ma gli altri non volevano intendere ragioni. Neli, di comare Barbara, che gli sanguinava il cuore dall'angoscia. Scarica l'asino, che aveva visto coi suoi occhi Zanghi stecchito sotto il lenzuolo. Massaro Lio, che si sentiva già i dolori di ventre addosso. In un attimo la baracca fu tutta sottosopra, i burattini, gli scenari, i cenci, la poca paglia fradicia dei sacconi. Poi, dopo che non ebbero più dove frugare, fecero un mucchio di ogni cosa e vi appiccarono il fuoco. «Bravo! E adesso come farete a scoprire se portavano il colera?» gridarono alcuni. Ma il povero capocomico non sentiva e non badava più a nulla, né le grida di morte, né le falci, né le scuri. Pallido e stravolto, col sangue giù per la faccia, i capelli irti, gli occhi fuori dalla testa, voleva buttarsi sul fuoco per spegnerlo con le sue mani, urlando che lo rovinavano, che gli toglievano il suo pane, strappandosi i capelli dalla disperazione, in mezzo alla famigliuola tutta peste malconcia, scampata per miracolo alla strage. Meglio che ci avessero uccisi tutti. Neppure il colera li aveva voluti, dappertutto dove l'avevano incontrato, stanchi ed affamati. Ancora, dopo 50 anni, scarica l'asino, il quale è diventato un uomo di giudizio, dice a chi vuol dargli retta che il colera ci doveva essere nel baraccone. Peccato che lo bruciarono. Quelli erano bricconi che andavano attorno così travestiti per non dare nell'occhio e buscavano centinaia d'onze a quel mestiere. Dove avevano saputo far le cose bene era stato a Miraglia, un paesetto mangiato dal colera e dalla fame, il giorno in cui s'erano viste lì pure certe facce nuove per la via, dove da un mese non passava un cane e la povera gente, senza pane e senza lavoro, aspettava il colera con le mani in mano. Anche costoro mostravano di essere dei viandanti rifiniti dal lungo viaggio, come una famigliola di zingari. L'uomo che si dava per calderaio, la moglie che diceva la buona ventura, la figlia, una bella bruna, la quale doveva averne fatte molte, così giovane com'era, e portava accanto al petto cascante un bambino affamato e macilento. Dei suoi 18 anni non le erano rimasti che 2 grandi occhi neri, degli occhi scomunicati che vi mangiavano vivo. Anch'essi si portavano dietro tutta la loro casa in un carretto sconquassato, coperto da una tenda a brandelli che veniva avanti traballando, tirato da un somarello sfinito. Siccome la popolazione si era commossa al loro apparire e minacciava, il sindaco accorse anche qui con le guardie armate sino ai denti, gridando da lontano «Via! Via!» come si fa ai lupi. Loro a ripeter la commedia che venivano da lontano, che li avevano scacciati da ogni dove, che erano affamati e che preferivano gli uccidessero schioppettate. Allora, per non saper che fare, temendo di accostarsi per paura del colera, li lasciarono lì, fuori del paese, guardate a vista come bestie pericolose. Nessuno chiuse occhio quella notte, la vigilia di San Giovanni, che c'era un chiaro di luna come di giorno. Tutto a un tratto, coloro che stavano a guardia nascosti dietro il muro, videro lo zingaro che s'era avventurato carponi sino alle prime case, razzolando in un mondezzaio. Colà l'uccisero di una schioppettata, senza neppure dirgli «Guardati!». Dopo gli trovarono un torsolo di cavolo che ci aveva ancora in pugno e il petto della camicia tutto gonfio di bucce e frutta marcia. Al rumore, alle grida che si udivano da lontano, tutto il paese fu in piedi subito e la caccia incominciò. La vecchia fu raggiunta all'argine del fossatello, barcollando sulle gambe stecchite. La giovane, dinanzi al carretto, che voleva difendere la sua creatura, come succede anche alle bestie, con certi occhi che facevano paura, e cercava di afferrare le scuri per aria con le mani insanguinate. Dopo, frugando fra i cenci della carretta, si disse che avevano scovato le pillole del colera e ogni cosa. Ma quegli occhi, più d'uno, non poté dimenticarli. E ancora, dopo 50 anni, Vito Sgarra, che aveva menato il primo colpo, vede in sogno quelle mani nere e sanguinose che brancicano nel buio. Però, se erano davvero innocenti, perché la vecchia, che diceva la buona ventura, non aveva previsto come andava a finire? Grazie a tutti e grazie soprattutto a Filippo Usellini, giovane attore del Teatro dei Sensibili. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento che abbiamo intitolato Pagine per il futuro. È un appuntamento che per il secondo anno consecutivo vede questa collaborazione con il Piccolo Teatro, tra il Piccolo Teatro e Radio 24, quest'anno in un formato un po' diverso rispetto allo scorso anno, ma io non vorrei perdere molto tempo perché vorrei subito cominciare la mia conversazione e soprattutto vorrei farlo con un vostro applauso di incoraggiamento con Guido Ceronetti. che ha scelto per questo pomeriggio dedicato ai sentimenti delle pagine anche molto importanti, significative e anche dure delle novelle di Giovanni Verga. Per quale motivo intanto abbiamo cominciato, Guido, con quelli del colera e soprattutto, visto che dovremo parlare anche di sentimenti e di sentimenti contrapposti, in realtà a sentire, a risentire, a commentare le pagine appunto lette da Filippo, di sentimento qua mi sembra che ne emerga solo uno, che è quello terribile della paura. Beh, la paura dell'unzione epidemica che forse esiste ancora da qualche parte, che è il cuore della colonna infame di Manzoni, qui lo vediamo vivente, all'opera in un paio di massacri, un massacro di commedianti girovaghi e uno di Zingari. Tanto per fare una parentesi filologica, la parola Zingari non è offensiva, quindi incoraggio ad usarla, a scriverla per chi scrive, perché questa storia dei Rom non mi va giù. Perché devono chiamarli Rom? Che è un singolare. Il plurale sarebbe Romeo, Romei, insomma, tanto per precisare meglio, ma poi non si capisce, poi vengono confuse le diverse tribù. Qui probabilmente si tratta di quelli che vengono chiamati scinti e che sono i più poveri tra i poveri, ecco. Insomma, in tutta la tradizione che ne parla, si è sempre parlato di zingari come zigoiner, gitani. La cingana è il primo nome della tempesta di Giorgione. Nessuno pensava a chiamarla una Rom, che poi appunto è un singolare maschile. Allora, insomma, togliersi anche da certi tabù idioti per la paura di offendere qualcuno che non ha nessun motivo di essere offeso, perché è semplicemente una definizione storica. Chiudo la parentesi. Certo, ma questa parentesi è stata molto interessante perché abbiamo trovato anche immediatamente una stretta relazione fra le pagine di Verga che abbiamo scelto per questa serata e l'attualità, perché mi sembra di capire che se anche non abbiamo oggi paura del colera, dobbiamo sempre comunque attribuire la responsabilità di quello che ci accade intorno a qualcun altro. Sì. È vero, sì, è una tendenza umana. A volte giustificata, a volte proprio per niente. E abbiamo ancora lo stesso atteggiamento nei confronti comunque delle medesime figure, del Rom, dello Zingaro. Perché c'è questo pregiudizio? Ma è... O è anche paura? Sì, o è più paura? Ma infatti non è mica che non ne diano del tutto motivo, ecco, è proprio... Capisci? Il primo a non conciliarsi con questo tipo di civiltà è lo Zingaro, in quanto è nomade. E noi siamo una civiltà sedentaria. Il gitano invece è un nomade e non riconosce la proprietà, non ha il culto della proprietà che abbiamo noi. D'altra parte, la parola che definisce il non nomade è gaggio. Gaggio poi in italiano è gaggio, anche in italiano poco usato. Viene dallo zingaro, gaggio, e indica stupido, proprio lo stupido. Quindi noi, in quanto gaggè, siamo degli stupidi. A volte mi fa rabbia appunto che con un repertorio bisunto, privo di fantasia, la zingara pretenda del denaro, ma perché ritiene proprio che lo siamo tutti, troppo stupidi. Per cui si può anche, cioè rubare non è delittuoso per lo zingaro, ma lo è per il sedentario che non si rivolta a questa storia. Ah, bene, a me sembra non conciliabile volere, sai, siccome c'è il culto della scuola, la scuola mette insieme, ma non è scolarizzando gli zingarelli che si concilino queste due differenze, disparità umane, ecco. Per quello che riguarda questo incontro, negli altri due appuntamenti che sono stati coordinati dal direttore di Radio 24, Fabio Tamburini, sono intervenuti altri due personaggi, Mario Capanna e Corrado Passera, e con loro è stata concordata più o meno una scaletta del pomeriggio. Con Guido Cernetti abbiamo preferito non farlo perché, come avete avuto modo di sentire, in realtà apriamo una parentesi, la chiudiamo e ne riapriamo un'altra subito dopo. Però siccome il tema dominante in realtà, Guido, di questi incontri è l'emozione, poi ne ritroveremo altre molto forti nelle altre letture che sono state scelte, io però vorrei sapere quali sono le emozioni dominanti che hanno dominato appunto la vita di Guido Cerronetti, che hanno guidato la vita di Guido Cerronetti. Ah, proprio in generale? Dice. Certamente, le più forti. Accidenti, mica vuoi poco. Ma certamente. Poi dobbiamo anche raccontare come ci siamo conosciuti noi, Guido, perché anche quello è stato molto interessante. Certamente di emozioni ne... Perché per quella è stata per me una grande emozione, poi non c'entra molto, però la raccontiamo. Senti, l'aria della Tosca, Visi d'arte, Visi d'amore, va bene. Quindi l'arte non è un'emozione? In che senso? Te la do come risposta. Ah. E io la prendo come tale, ne prendo atto, perché oggi voi dovete sapere che io, nonostante sia alto 1,80 m, a fare questa conversazione con lui mi sento microscopica. Però, l'arte e l'amore mi sembrano abbastanza. Direi che sono anche abbastanza tutto, sì, certo. In realtà poi per le letture successive io volevo ingabbiare Guido Cerronetti nell'istinto e nel controllo, perché appunto poi leggeremo Tentazione, che è la storia di uno stupro, qualcosa di abbastanza anche inedito per le modalità con cui siamo abituati a conoscere quello che scrive appunto Giovanni Verga. Quanto Guido Cerronetti è un uomo che si è fatto guidare dall'istinto e dal controllo, che cosa ha prevalso di più nella sua guida, nella sua vita? È un uomo controllato o più un uomo distinto? Sono controllato, purtroppo. Sì. Figurati, ho avuto proprio un'educazione ultra controllata, con cui proprio non si respirava. Non si respirava in casa Cerronetti. Beh, però comunque è stata. Però ti è stato permesso, Guido, di manifestare tutte anche le tue vocazioni artistiche, per cui forse non è neanche così. No, è il fatto che uno si butta ad un certo punto sui libri per sfuggire all'amprismo familiare, per non essere uno strumento dei dogmi della famiglia, ecco, che sono il lavoro, soltanto e sempre il lavoro. E invece il libro apriva degli orizzonti, la filosofia, il romanzo. Credo, per quanto riguarda Verga, di averlo letto proprio in età adolescenziale. Le novelle un po' dopo, ma sono impressioni giovanili. Scrivevo delle orrende cose che però erano verghizzanti. Quali sono gli autori di cui ti sei innamorato, Guido, in età giovanile, oltre a Verga, appunto, che ci dicevi hai scoperto presso poco in quel periodo della tua vita, che hai valorizzato, diciamo? Eh beh, per quanto riguarda, parli dell'età giovanile, no, sì, ho pochi ricordi, perché un po' devo averla rimossa. Devo averla rimossa. No? In epoca successiva, invece? No, potrei finire come il nastro di Cap di Beckett. Quegli anni non li rivorrei indietro proprio. Perché? Non amo questi, ma non vorrei indietro quegli altri. Perché non ami questi, Guido? Ma questi sono il disastro dei disastri della vecchiaia, che sono veramente uno schifo. Quindi non la salvo la vecchiaia. Pensavo che volessi dare colpa allo spread un'altra volta, perché già ci siamo imbattuti in questa conversazione. No, lo spread lo amo. Me l'hai fatto amare tu. Pensa che associazione di idee adesso faranno questi signori. Torniamo a Verga. Vogliamo leggere, Filippo, l'altro racconto che abbiamo scelto, che in realtà ci fa fare un volo pindarico notevole. No, Tentazione però... è proprio una... Uh-huh. No, credo che prima abbiamo l'altro. Tentazione, siccome è fortissimo, ce lo lasciamo per ultimo. Ah, va bene, questo è un brano di geografia emotiva, per cui l'uso delle parole, delle parole delle località è importantissimo nello stile di Verga. Quelli del colera si apre proprio con... E il colera mieteva la gente con la falce, È una delle grandi, dei grandi modi stilistici dello scrivere, non solo di questo. Qual è, Guido, il colera che oggi miete la gente con la falce? Abbiamo qualcosa di paragonabile, così dirompente? Io credo sia la tecnologia elettronica. Sì. È un colera mentale, ma che non lascia in vita autonoma e libera più nessuno, salvo noi, rari nantes nel gurgite vasto, che non così per qualche motivo, per qualche fortuna siamo refrattari, non so quanti siano, ma ci contiamo, però ce n'è, ecco, qualcuno. Se no è proprio, sì, è un colera, non ci avevo pensato. Hai visto che qualche cosa, nonostante lo spread, servo a stuzzicarti un po'? No, dovrò tornarci su questa cosa. Ah sì? Ma magari... infatti la tecnologia oggi è epidemica, non rispetta nulla e tutti i poteri entrano lì. Eppure un progresso di questo tipo è ineluttabile e dobbiamo farci conto. Già, ma anche il colera è ineluttabile. Cioè c'è un qualcosa che non... Però non è che sia buono, ecco quello. Il fatto è che distinguevamo ancora. La peste bubonica ti mostrava i gavoccioli. Allora, quei gavoccioli qua... E questa no, non ha niente, anzi ti fa dei regali, ma sappiamo che i regali del diavolo portano del bene. Però la tecnologia che tu associ appunto al colera in realtà sta portando progresso e benessere tra le persone, non è così? No. No. Non lo vedo. La privazione della libertà mentale non è paragonabile a nessun altro male. Nella Guerra dei Mondi, quel meraviglioso scrittore veggente che è stato Wells, dice dei marziani a un certo punto, stavano riducendo l'impotenza il genere umano. E quindi questa tecnologia è una forza cosmica. Anche un filosofo come Heidegger l'ha visto benissimo, è una forza cosmica, irresistibile e nello stesso tempo che falcia la gente ben al di là di quel paesaggio catanese del Ghiano. No, non porta del, porta, ma qui vale anche il Vigiliano, Timeodana o Sedona Ferente. Ho paura dei greci, anche se portano regali, come il cavallo di Troia. Il cavallo di Troia ormai è ben dentro le mura e quindi non c'è più niente da fare. Però il colera era una circostanza che veniva subita. Il progresso e la tecnologia è qualcosa che viene ricercato, inseguito. Quindi perché vogliamo fare questo parallelo? Sai, queste cose sono mica, non sono rifiutabili, proprio per questo. Siamo dei poveretti, Siamo dei poveretti, abbiamo bisogno di tutto. Abbiamo fame, sete, sonno, bisogno d'amore. Siamo dei poveretti, in quanto poveretti, qualunque cosa che ci tolga dalla miseria è bella, è buona, adorabile. E allora ecco che arriva l'idolo, arriva qualcosa che ti dice, to guarda, ecco, ti do questo. E certo che lo prendiamo. Cioè, quindi insomma non è misero, evidentemente solo la l'uomo che non ha risorse. La condizione umana non è buona, è inutile che ci raccontiamo balle ufficiali, non è buona. È terrificante, è terribile, è dura, è crudele. Ti ricordi il film L'isola nuda, della grande epoca del film giapponese? Non amo molto il genere, sono... Non amo molto quel genere, però da questo suggerimento ci sono lo cercherò. Dei film meravigliosi. Non so chi lo conosca. L'isola nuda mostrava una coppia umana con le due secchi in spalla che facevano una fatica immane, quotidiana, soli in un'isola, in una rocciosa, per andare a riempire queste due bigonce di acqua. E quello era nell'insieme la loro salvezza, la loro sopravvivenza, il loro riscatto. Il facile è il grande nemico che abbiamo. Il facile? Il facile. Avere tutto subito. Avere tutto subito. Trovare l'editore subito. L'editore? Sì. Andiamo a leggere Dai dintorni di Milano, sì. Questo è I dintorni di Milano. Adesso leggiamo, Filippo legge I dintorni di Milano. È un tratto. Dai dintorni di Milano. Io mi rammento ancora della prima gita che feci al lago di Como, in una giornata soffocante di luglio, dopo una di quelle estati di lavoro e di orizzonti afosi che vi mettono in corpo la smania del verde e dei monti. La prima torre sgangherata che scorsi in cima alla montagna posta a guardia del lago mi si stampò dinanzi agli occhi come un faro di pace, di riposo, di freschi orizzonti. Il paesaggio era ancora uniforme. Tutto a un tratto, dalle alture di Gallarate, vi si svolge davanti un panorama che è una festa degli occhi. Allorché vi trovate per la prima volta sul ponte del battello a vapore, rimanete un istante immobile e con la sorpresa ingenua del piacere stampata in faccia, né più né meno di un contadino che capiti per sorpresa in una sala da ballo. L'ammirazione è ancora di impressione, vaga e complessiva. Non è lo spettacolo grandioso del Lago Maggiore, né quello un po' teatrale del Lago di Lugano visto dalla stazione. È qualche cosa di più raccolto e penetrante. Tutto il lago di Como, a prima vista, è in quel bacino da Cernobbio a Blevio. E la prima idea netta che vi sorga è di sapere da che parte se ne esca. A poco comincia a sorgere in voi come un'esuberanza di vita, quasi un'esultanza di sensazioni e di sentimenti a misura che lo svariato panorama si va svolgendo ai vostri occhi. Sentite che il mondo è bello e se mai non l'avete avuta, principia a spuntare in voi come in un bambino la curiosità di vederlo tutto, così grande e ricco e vario, di là di quelle cime brulle, oltre quei boschi che si arrampicano come un'immensa macchia bruna sui dossi arditi, dopo quei campanili che sorgono da un folto d'alberi, di quelle cascate che biancheggiano un istante nella fenditura di un burrone, di quelle ville posate come un gingillo su di un cuscino di verdura, che vi creano in mente mille fantasie diverse e la vostra immaginazione popola di figure leggiadre dietro le stoie calate e di vetri scintillanti, in quelle barchette leggere che battono nel remo silenzioso come un'ala e si dileguano mollomente con un cinguettio lontano di voci fresche, strascinandosi dietro delle bandiere a colori vivaci. È come un sogno in mezzo a cui passate e vi sfila dinanzi Villa d'Este, elegante, Carate, Civettuolo, Torno, Severo e Balbianello, superbo. Poi, come tutto a un tratto, vi si allarga dinanzi la Tremezzina, quasi un riso di bella fanciulla, nell'ora in cui sulla Grigna digradano le ultime sfumature di un tramonto ricco di colori e Bellagio comincia a luccicare di fiammelle e il ramo di Colico si fa smorto di là di Varenna. E Lenno e San Giovanni mi mandano le prime squille dell'Ave Maria. Voi vi chinate sul parapetto a mirare le stelle che ad una principiano a riflettersi sulla tranquilla superficie del lago. E appoggerete la fronte sulla mano, sentendovi sorgere in petto del pari, ad una, tutte le cose care e lontane che ci avete in cuore e dalle quali non avreste voluto staccarvi mai. Grazie Filippo. Stavo... Anche rileggendolo prima questo brano e risentendolo adesso anche dalla recitazione appunto di Filippo, immaginavo chissà quanti di noi avremmo percorso questi posti con l'auto, no? E magari saremmo rimasti così particolarmente colpiti da un momento, da un tramonto piuttosto che da un cielo particolarmente azzurro. Immaginate di fermarvi e di scrivere con questa minuzia di dettagli tutto quello che vedete, no? Perché io non avrei ovviamente mai la capacità, non perché ovviamente abbiamo l'ambizione di paragonarci a Verga, ma proprio secondo me perché Guido abbiamo sicuramente perso l'emozione magari di soffermarci sui dettagli di ciò che ci circonda, colpa anche di tutta quella tecnologia che magari ci ha un po' sicuramente fatto perdere anche la capacità di così analizzare le nostre emozioni di fronte a certe... A certe situazioni. Qui il paesaggio è evocato dalla potenza della parola, anche chi non c'è mai stato, anche se sono luoghi che molti, quasi tutti, hanno, si può dire, abbiano visto, però si tratta proprio della potenza della parola di evocarli. Tu metti... è la collocazione della poesia, di usare, e allora diventa soltanto, cioè non è altrove, non è la guida turistica che ti dica vai in quel luogo, è quella che è appunto un poeta come Antonio Machado chiama geografia emotiva. La geografia emotiva è qualcosa di che appartiene veramente più ancora che al paesaggio stesso, alla magia della parola. Come la potresti anche descrivere? Se non ci sei mai stato, non ci andrai mai. Che ci sia la circostanza anche. Un testo che varrebbe la pena che fosse visto è la battaglia di Waterloo, nel racconto che ne fa nei Miserabili Victor Hugo. E lì a un certo punto c'è un capitolo intitolato La Déroute, che è dove sono enumerate semplicemente le tappe che percorre l'armata napoleonica nella sua ritirata. Quella è geografia emotiva, la forza evocatrice, il ritmo. La capacità della parola di riuscire, sì, al lettore, sì, a fargli fotografare esattamente la situazione. Il paesaggio. Ecco. Verga è uno dei maestri della evocazione mediante la parola. Io sono anche stato a visitare il paese del Mastro Don Gesualdo, che è vicino, tutto si svolge Catania. A Vizzini. Ci sono i luoghi, ci sono le chiese, anche se poi l'anima un po' se n'è andata. Però quel che è consegnato al racconto è molto... Qui anche, diciamo, libri per il futuro. Qui salviamo per il futuro, grazie alla parola, proprio il paesaggio italiano che ormai è perduto. Infatti, Guido mi ha richiamato anche allo spirito appunto del nostro incontro, chiamato Pagine per il futuro, perché noi ripeschiamo scritti, appunto in questo caso le novelle di Verga, per cercare di capire se possono essere anche delle pagine eternamente tramandate. Questo lo sono già per definizione, però ecco, in questo caso, Guido, abbiamo proprio estrapolato dei concetti che possono assolutamente essere, come dire, replicati per sempre. Il tema della geografia emotiva effettivamente è molto affascinante. Sì, è sterminato. Ti sei mai cimentato tu in descrizioni? Io poi su qui faccio magari anche una brutta figura, perché chiaramente le tue opere non le conosco tutte, però ecco, se dovessi dire se in certi momenti ti sei cimentato anche in un esperimento di questo tipo, qual è stato il tuo esercizio di geografia emotiva? Ah, non saprei farne dei racconti, ma credo attraverso un po' tutto, attraverso ciò che ho letto e meditato e poi vissuto, tradotto in vissuto. Credo che senza la parola, senza la sua mediazione, queste cose sfuggano. Non so, un paese qualsiasi. Ecco, per esempio, uno molto bravo nel far vivere i luoghi è Cesare Pavese. Ecco, prendi la Luna e i Falò, è esemplare. È bravo quanto Verga. La Luna e i Falò è un testo pieno di geografia. Di là dal Belbo. Il Belbo non è niente, non ha interesse, non vai a cercarlo. No? Un fiumiciattolo così, ma nella geografia pavesiana, ecco, facciamo questo affronto che puoi anche non essere indotto ad andare a vederlo. Nizza Monferrato è proprio come paese, non è una bellezza. Però nell'evocazione, anche quella che ha Pavese in Lavorare stanca, e trovi i riferimenti topografici, le vie delle città sono... I nomi delle strade, anche quella è tutto. Non è mai carino. I nomi delle vie delle città italiane erano dei capolavori. Nell'attualità c'è chi si cimenta in maniera adeguata alla geografia emotiva nella contemporaneità? Si è perso, vai all'Euro, non lo so, Viale della Letteratura, a parte che c'è una istituzione non benemerita come la SIAE, ma... che oggi ci ha anche un po' messo i bastoni tra le ruote, perché Guido voleva portare, lo confessiamo, ben altre letture, poi però siccome questo incontro va replicato su Radio 24, quindi lo abbiamo dovuto un po' arginare nella scelta, purtroppo, però venuto, possiamo raccontare. È casuale, ecco. Ogni riferimento è puramente casuale. Ma il Viale della Letteratura, lei non ti dice, non ti dice un granché, ecco. No, infatti. Quando passavo a Roma, avevo spesso da passare per via Monaci, dove ci fu il delitto Fenaroli, che fece strangolare la moglie. E mi ricordo che facevo questa riflessione, dico, questa, adesso è successo questo fatto, e via Monaci è tuttora via Monaci, ma nell'Italia del 300, 400, 500, quella si sarebbe chiamata via della strangolata, perché c'era anche questo coraggio di chiamare. A Urbino c'è un vicolo dell'amore e c'è un vicolo della morte, ci abita della gente, cioè non c'era questa superstizione. Ma adesso abitare in Viale Mazzini ti sembra qualcosa, no? Cioè, no, lì, con il Risorgimento, livellando la toponomastica, ha rovinato mezza Italia, almeno per quanto riguarda... Perché è tutto Piazza Garibaldi, Viale Mazzini, Viale Mazzini, Viale Mazzini, Corso Garibaldi, svolti in Piazza Cavour. Io sa, e lo sempre... so. Piazza della Strangolata non sarebbe stato molto, molto elegante. No, era via. Ah, era via, no, però dico magari a Milano. Era via. Io rimango stupefatta tra tutte queste riflessioni, ancora sto cercando Ma il vicolo morte. A Città della Pieve c'è il vicolo Baciadonne. Tu pensa, Guido, che tra un po' troveremo anche via dello spread, del Bund, del BTP. Lo sai, sì, verso quale strada stiamo andando? È questa? Dopo il tuo passaggio dell'etereo sarà così, di sicuro. È possibile. Allora dobbiamo raccontare come ci siamo conosciuti. È un grande ascoltatore di Radio 24, Guido Ceronetti. Una mattina vado in ufficio, noi abbiamo tutti i giorni la rassegna stampa di tutte le citazioni di Radio 24 sui vari giornali, no? Quindi tutti i giorni leggerete di politici intervistati da Giuseppe Cruciani alla Zanzara, perché adesso è il nostro grande cavallo di battaglia. E lui, un giorno vedo che mi vedo comparire su questa rassegna stampa, che è qualcosa che avviene abbastanza di rado, perché io mi occupo di amenità finanziarie, della finanza familiare, del risparmio, delle tasse e dei mutui, quindi potete immaginare quanta risonanza possa avere sulla stampa nazionale. E beh, scopro quel giorno invece con un paginone sulla stampa di Torino che Guido Ceronetti mi ha dedicato un intero articolo, al che, dopo superato lo shock iniziale, vado a leggerlo, me lo sono portato, e tutta la sua riflessione era incentrata appunto sui mali contemporanei, naturalmente, della finanza. Non ho ancora capito, a distanza di un anno da quell'episodio, se io ne sia uscita bene o male, però preso atto appunto del grande interesse che Guido appunto ha avuto e la grande attenzione che ha avuto appunto nei miei riguardi, nei confronti della radio e del mio programma. E lui, tra l'altro, si dice costantemente distaccato da tutto ciò che è la finanza moderna, in realtà ha fatto un'analisi estremamente puntuale e dettagliata di questa nostra ossessione, appunto, quindi ci mettiamo anche dentro un altro sentimento in tutto questo nostro ragionamento, Guido, se vogliamo, siamo ossessionati adesso da questo spread, però in realtà ha fatto un'analisi anche molto lucida di tutte quelle che sono le preoccupazioni, lo erano un anno fa come lo sono in questo momento, anche delle famiglie italiane, delle persone, perché so che sei rimasto anche molto affascinato dalle persone che telefonano alla radio e che manifestano le loro emozioni anche interagendo banalmente con me. Sì, sì, no, lì dietro c'è un retroterra anche appassionante. Sì? Cioè ci sono i casi umani che arrivano a... Arrivano a chiedere consiglio alla radio. A me è incomprensibile il suicidio detto per motivi economici, però è un fatto, Secondo te, Guido, è una realtà perché ne parliamo di più ed è sempre stato così? Perché addirittura noi oggi ci troviamo a dibattere su questo, perché molti ci raccontano, guardate che la situazione è sempre stata questa, adesso è banalmente sono molto più enfatizzata. Non è sempre stata questa. Mm. Questa è veramente nuova, è nuova. Perché il suicidio del povero non si dà. Il povero può morire di fame, ma non si suicida per fame. Il benestante che deve chiudere un'attività, che non ce la fa più, eccetera, e magari non conoscerà mai la fame lo stesso. È quello il problema. Però non lo sopporta. Il non sopportare di cambiare drasticamente una condizione alla quale ci si è abituati, Sì, sì, l'appartamento più grande che non potrà comprare, eccetera, allora ti togli la vita. A parte che ci può essere un groviglio di altri motivi personali che uno non può sapere, lo attribuisce a questo. Però il fenomeno a me sembra nuovo, poi soprattutto in Italia è nuovo. Una volta che ho ringraziato Guido per aver scritto questa pagina sulla stampa, ho naturalmente chiesto a Guido di intervistarlo e l'ho portato a Salvadanaio a Pasqua dello scorso anno. E una riflessione che abbiamo fatto, eravamo in un momento ancora molto delicato, c'era un nuovo governo da pochi mesi e ho chiesto a Guido che cosa pensasse di questo panorama politico, non glielo chiedo sull'attualità perché veramente gireremmo un coltello in una piaga molto profonda, ma un anno fa lui mi disse: io ho il problema grosso, a parte Monti, che vedo nella classe politica e nella classe dirigente, che è una classe incapace di andare in mezzo alla gente, dovrebbero fare tutti come facevano i principi di una volta, che si travestivano appunto da popolani e andavano a vedere che cosa succedeva. Ma ce lo vedi tu oggi un politico, Guido, che fa un lavoro di questo genere? No, potrebbe anche accadere, ma per adesso non ne abbiamo degli esempi. Sì, è gente molto astratta rispetto ai... Però non ha la tua nobile astrazione. Perché tu dici sono distaccato, ma perché magari nella vita ti sei da sempre dedicato a qualcos'altro. Qua ci sembra un distacco molto interessato, però una non assunzione di responsabilità quasi ci sembra. Tu che pensi? Beh, certo che non hanno molta... non hanno radici nella vita. Sembra gente che veramente non abbia imparato molte cose. Non come cultura, perché magari ce ne può essere, ma non ha imparato delle cose essenziali, mancano di contatto con la vita, con le donne, con la perché spesa. Perché hai sottolineato con le donne? Perché hai sottolineato mancano di contatto con le donne? È perché è il contatto più importante che si può avere con la vita stessa. Il mondo dello yin, sterminato, dell'ombra. Lo posso constatare anche con amici che hanno avuto la sventura di essere monogamici. E sono poveri di esistenza, un po' come chi non ha mai cantato. Ah, ti ricordi proprio della Radio 24, quando Cruciani faceva cantare i politici? Sì, anche e in non quello, so, gli rivolgevano a volte anche delle adulazioni, dicendo che erano bravi. Erano veramente degli stonati spaventosi. Sì, guarda, sei anche carino nel giudizio. Io avrei detto un po' grotteschi, ridicoli. No, stonati mi sembra... Ma se non hanno vergogna di tutto cantavo, il resto, cioè, figuriamoci del cantare. Mi piaceva e facevano dei motivi anche... ascoltavi delle cose veramente orripilanti che non avevano... Guido, avevano rapporto con la... Ma com'è questa storia che questi politici li scegliamo noi? Ma non li scegliamo. No? No. Infatti adesso con le leggi che non riusciamo a toglierci, non c'è neanche quella scelta immaginaria che ci poteva essere prima. Non so se cambieranno le cose con il movimento delle 5 o 10 stelle, non lo so, ma non... se trovi qualcuno intonato, guarda, lo voterei. Guarda che loro si cimentano anche nel canto pur di prendere qualche voto, visto che hanno sperimentato di tutto. No. Adesso ci manca anche questo. Fra l'altro poi nelle scuole adesso fanno l'educazione musicale, ma i ragazzi sono stonati. Sono stonati perché non cantano, perché le loro madri non cantano. La mia di sempre difetti colpa delle ne aveva, donne. Ma cantava. Cantava, i balconi cantavano. Senti, andiamo a caccia di qualche altro sentimento leggendo Tentazione adesso, perché parliamo ancora di donne con questa... Sì, a Tentazione, leggiamolo pure, perché sennò facciamo tardi. Non è che ti starai annoiando in questa conversazione, no? No, per niente, io... No. Tentazione. Ecco come fu, vero come vero iddio. Erano in tre, Ambrogio, Carlo e il Pigna, sellaio. Questi che li avevano tirati pei capelli a far baldoria. Andiamo a Vaprio col tramvai, e senza condursi dietro uno straccio di donna, tanto è vero che volevano godersi la festa in santa pace. Giocarono alle bocce, fecero una bella passeggiata sino al fiume, si regalarono il bicchierino e infine desinarono al merlo bianco sotto il pergolato. C'era lì una gran folla, e quel dell'organetto, e quel della chitarra, e ragazze che strillavano sull'altalena, e innamorati che cercavano l'ombria, una vera festa. Tanto che il Pigna s'era messo a far l'asino con una della tevolata accanto, civettuola, con la mano nei capelli e il gomito sulla tovaglia. E Ambrogio, che era un ragazzo quieto, lo tirava per la giacchetta dicendogli all'orecchio «Andiamo via, se no si attacca lite». Dopo, sul cellulare, quando ripensava al come era successo quel precipizio, gli pareva di impazzire. Per acchiappare il tramvai verso sera, fecero un bel tratto di strada a piedi. Carlo, che era stato soldato, pretendeva conoscere le scorciatoie e le aveva fatto prendere per una viottola che tagliava i prati a zigzag. Fu quella la rovina. Potevano essere le 7. Una bella sera d'autunno, coi campi ancora verdi, che non ci era anima viva. Andavano cantando, allegri della scampagnata, tutti giovani e senza fastidi per il capo. Se fossero loro mancati i soldi, pure il lavoro, o avessero avuto altri guai, forse sarebbe stato meglio. E il Pigna andava dicendo che avevano spesi bene i loro quattrini quella domenica. Come accade, parlavano di donne e dell'innamorata, ciascuno la sua. E lo stesso Ambrogio, che sembrava una gatta morta, raccontava per filo e per segno quel che succedeva con la Filippina quando si trovavano ogni sera dietro il muro della fabbrica. «Sta a vedere», borbottava infine che gli dolevano le scarpe, «sta a vedere che Carlino ci fa sbagliare la strada». L'altro invece no, il tramvai era là di certo, dietro quella fila d'olmi scapitozzati che non si vedeva ancora per la nebbiolina della sera. Le sotto il punt, le sotto il punta fa la legna. E Ambrogio dietro faceva il basso, zoppicando. Dopo un po' raggiunsero una contadina con un paniere infilato al braccio che andava per la stessa via. «Sorte!» esclamò il Pigna. «Ora ci facciamo insegnare la strada!» Altro! Era un bel tocco di ragazza, di quelle che fan venire la tentazione a incontrarle sole. «Sposa, è questa la strada per andare dove andiamo?» chiese il Pigna ridendo. L'altra ragazza onesta chinò il capo e affrettò il passo senza dargli retta. «E che gamba, ne?» borbottò Carlino. «Se va di questo passo a trovarli innamorato, felice lui!» La ragazza, vedendo che le si attaccavano alle gonnelle, si fermò su due piedi col paniere in mano e si mise a strillare. «Lasciatemi andare per la mia strada e badate i fatti vostri!» «Che non ce la vogliamo mangiare!» rispose il Pigna. «Che diavolo!» Ella riprese per la sua via, a testa bassa, da contadina cocciuta che era. Carlo, a fine di rompere il ghiaccio, domandò: «A dove va, bella ragazza? Come si chiama lei?» «Mi chiamo come mi chiamo e vado dove vado.» Ambrogio volle intromettersi lui. «Non abbia paura, che non vogliamo farle del male. Siamo buoni figlioli. Andiamo al tramvai per i fatti nostri.» Come egli aveva la faccia d'uomo da bene, la giovane si lasciò persuadere, anche perché annottava e andava a rischio di perdere la corsa. Ambrogio voleva sapere se quella era la strada giusta per il tramvai. «M'hanno detto di sì», rispose lei. «Però io non son pratica di queste parti», e narrò che veniva in città per cercare di allogarsi. Il Pigna, allegro di sua natura, fingeva di credere che cercasse di allogarsi a Balia, e se non sapeva dove andare, un posto buono glielo trovava lui la stessa sera, caldo caldo. E come aveva le mani lunghe, ella gli appuntò una gomitata che gli sfondò mezzo le costole. «Cristo!» borbottò. «Cristo, che pugno!» E gli altri sghignazzavano. «Io non ho paura di voi né di nessuno», rispose lei. «Né di me? E neppure di me? E di tutti e tre insieme? E se vi pigliassimo per forza?» Allora si guardarono intorno per la campagna, dove non si vedeva anima viva. «O il suo amoroso», disse il Pigna per mutare discorso, «o il suo amoroso, come va che l'ha lasciata partire?» «Io non ne ho», rispose lei. «Davvero? Così bella? No che non son bella. Andiamo, via!» E il Pigna si mise in galanteria, coi pollici nel giro del panciotto. Per Dio, se era bella! Con quegli occhi e quella bocca e con questo, con quest'altro. «Lasciatemi passare», diceva ella ridendo sotto naso con gli occhi bassi. «Un bacio almeno. Cos'è un bacio? Un bacio almeno poteva lasciarselo dare per suggellare l'amicizia. Tanto cominciava a farsi buio e nessuno li vedeva.» Ella si schermiva col gomito alto. «Corpo, che prospettiva!» Il Pigna se la mangiava con gli occhi di sotto il braccio alzato. Allora ella gli si piantò in faccia, minacciandolo di sbattergli il paniere sul muso. «Fate pure, picchiate sinché volete, da voi mi farà piacere. Lasciatemi andare o chiamo gente!» Egli balbettava con la faccia accesa. «Lasciatevelo dare, che nessuno ci sente!» Gli altri due si scompisciavano dalle risa. Infine la ragazza, come le si stringevano addosso, si mise a picchiare sul sodo, metà seria, metà ridendo, e su questo e su quello, come cadeva. Poi si diede a correre con le sottane alte. «Ah, lo vuoi per forza, eh? Lo vuoi per forza!» gridava il Pigna, ansante, correndole dietro. E la raggiunse col fiato grosso, cacciandole una manaccia sulla bocca. E così si acciuffarono e andavano sbatacchiandosi qua e là. La ragazza, furibonda, mordeva, graffiava, sparava calci. Carlo si trovò preso in mezzo per tentare di dividerli. Ambrogio l'aveva afferrata per le gambe, onde non azzoppisse qualcheduno. Infine il Pigna, pallido, ansante, se la cacciò sotto con un ginocchio sul petto. E allora tutti e tre, l'uno dopo l'altro, al contatto di quelle carni calde, come fossero invasati a un tratto da una pazzia furiosa, ubriachi di donna, Dio ce ne scampi e liberi. Ella si rialzò come una bestia feroce, senza dire una parola, ricomponendo gli strappi del vestito e raccattando il paniere. Gli altri si guardavano fra di loro con un risolino strano. Come ella si muoveva per andarsene, Carlo le si piantò in faccia col viso scuro. «Tu non dirai nulla!» «No, non dirò nulla», promise la ragazza con la voce sorda. Il pigna a quelle parole l'afferrò per la gonnella. Ella si mise a gridare. «Aiuto, taci! Aiuto all'assassino! Sta zitta, ti dico!» Carlino l'afferrò alla gola. «Ah, vuoi rovinarci tutti, maledetta!» Ella non poteva più gridare sotto quella stretta, ma li minacciava sempre con quegli occhi spalancati dove c'erano i carabinieri e la forca. Diventava livida, con la lingua tutta fuori, nera, enorme, una lingua che non poteva capire più nella sua bocca. E a quella vista persero la testa tutti e tre dalla paura. Carlo le stringeva la gola sempre più. A misura che la donna rallentava le braccia e si abbandonava, inerte, con la testa arrovesciata sui sassi, gli occhi che mostravano il bianco. Infine la lasciarono ad uno, lentamente, atterriti. Ella rimaneva immobile, stesa supina sul ciglione del sentiero, col viso in su e gli occhi spalancati e bianchi. Il pigna abbrancò per l'omero Ambrogio, che non si era mosso, torvo, senza dire una parola. E Carlino balbettò: «Tutti e tre, beh? Siamo stati tutti e tre, ho sangue della Madonna!» Era venuto buio. Quanto tempo era trascorso? Attraverso la viottola bianchiccia si vedeva sempre per terra quella cosa nera, immobile. Per fortuna nessuno passava di là. Dietro la pezza di Gran Turco c'era un lungo filare di gelsi. Un cane si era messo ad abbaiare in lontananza. E ai tre amici pareva di sognare quando si udì il fischio del tramvai che andavano a raggiungere mezz'ora prima, come se fosse passato un secolo. Il pigna disse che bisognava scavare una buca profonda per nascondere quel che era accaduto e costrinsero Ambrogio per forza a strascinare la morte nel prato, come erano stati tutti e tre a fare il marrone. Quel cadavere pareva di piombo, poi nella fossa non c'entrava. Carlino gli recise il capo col coltelluccio che per caso aveva il pigna. Poi, quando ebbero calcata la terra, pigiandola coi piedi, si sentirono più tranquilli e si avviarono per la stradicciuola. Ambrogio, sospettoso, teneva d'occhio il pigna che aveva il coltello in tasca. Morivano dalla sete, ma fecero un lungo giro per evitare un'osteria di campagna che spuntava nell'alba. Un gallo che cantava nella mattinata fresca li fece trasalire. Andavano guardinghi e senza dire una parola, ma non volevano lasciarsi, quasi fossero legati insieme. I carabinieri li arrestarono alla spicciolata dopo alcuni giorni. Ambrogio in una casa di malaffare, dove stava da mattina a sera. Carlo vicino a Bergamo, che gli avevano messo gli occhi addosso al vagabondare che faceva, e il pigna alla fabbrica. Là, in mezzo al via vai dei lavoranti, al brontolare della macchina. Ma al vedere i carabinieri si fece pallido e gli si imbrogliò subito la lingua. Alle assise, nel gabbione, volevano mangiarsi con gli occhi l'un l'altro, che si davano del Giuda. Ma quando ripensavano poi sul cellulare com'era stato il guaio, gli pareva di impazzire, una cosa dopo l'altra. E come si può arrivare ad avere il sangue nelle mani, cominciando dallo scherzare? Ho letto che questa... bellissima. È stata una novella a lungo ignorata di Verga, perché sembrava incredibile che potesse essere stata la stessa persona, appunto, di Verga, a partorire una novella di questo tipo, visto che associamo generalmente, appunto, Verga alle sorti dei contadini, dei più umili, appunto, della Sicilia. Quando abbiamo ipotizzato anche in questo caso dei sentimenti da associare a questa novella, io ho pensato alla contrapposizione fra l'istinto e il controllo, perché qui abbiamo la bestialità più brutale che non riesce a controllarsi, Guido, ma qui veramente, tra l'altro questo è un testo che potrebbe tranquillamente essere riportato sulle pagine di un quotidiano attuale, perché sempre più spesso leggiamo delle brutalità del branco, piuttosto anche di tante violenze che si consumano nelle mura domestiche. Guido. Che cosa ne pensiamo di questi uomini che anche oggi sono sempre più frequentemente portati a non controllarsi dal punto di vista emotivo di fronte a certi atteggiamenti femminili? E anche perché hai voluto portare anche questa novella in particolar modo? Questa è mica la natura umana. La natura umana è semibestiale. E poi per quanto la civiltà abbia fatto per frenarla, appunto, per controllare questi istinti, questi rimangono. Mancando un'educazione molto, molto forte, ma direi che le cause sociali possono essere tante. In ogni caso, sì, è vero, c'è una. C'è una grande crescita di violenza, è un fatto. Se ne parla continuamente verso le donne, di assenza di freno. Però, contrariamente ai suicidi di cui parlavamo prima, che tu ritieni che siano molto drasticamente aumentati, prima quando eravamo dall'altra parte del teatro e parlavamo tra di noi, tu mi hai detto in realtà queste violenze secondo me ci sono sempre state e non è che adesso se ne parli di più perché sono aumentate. È così? Cioè... No, certamente devono essere aumentate. Mm. Sì, perché non è che siano... sono aumentate sicuramente. Qui possiamo anche accettare il dato statistico. O c'è più propensione alla denuncia? Forse c'è. Sì, sono meno nascoste. Poi lo stupro familiare è sempre stato violento. Io ricordo anche proprio quando abitavo in famiglia, avevamo sopra delle mansarde e qualche volta delle ragazze che abitavano lì suonavano il campanello e chiedevano protezione. A mia madre, perché erano insidiate dal padre che diventava furibondo per il rifiuto delle figlie. Ecco, capisci questo fatto? E quindi insomma... Sì, cioè aveva il diritto patriarcale di vita, di morte, di stupro. Il padre e oggi qualche volta il marito, il fidanzato, il filarino, che qualche volta insomma c'è questa tendenza a voler assumere poi questo controllo. Vede, no, ma io non entro in questi, diciamo che li posso anche capire poco questi fenomeni. Non... Sono sempre un po' come succede anche nella novella, perché credo che poi Verga, qui ne abbiamo dovuta prendere una sintesi, si focalizzi proprio su questo aspetto. La progressione del fatto è magistrale, come avviene? Viene radiografata si parte dallo scherzo innocente per arrivare alla tragedia. Non ne hanno l'intenzione, ma una forza che li trascende. Anche in questa novella la capacità descrittiva di Verga è notevole, c'è un altro tipo di geografia emotiva. Non ci sono nomi di luogo, dove è accaduto questo? Dovunque, è un dovunque, non c'è proprio l'indicazione. Non sai se sia A me sembra paesaggio lombardo, ma può essere qualsiasi altro luogo. Sì, dai nomi, dal modo di comportarsi, si direbbe paesaggio lombardo di fine Ottocento. Perché il violento è sempre insospettabile, Guido? Ma non sempre. Però diciamo che il violento, nei casi che abbiamo affrontato... Se è noto che sia un violento, è sospettabilissimo. E che a volte non commette atti del genere, ma la violenza abita con noi. Sì, dici con tutti, bene o male. Dentro di noi, in ognuno di noi c'è quella molla che potrebbe in maniera improvvisa scattare. Un verso di Giorgio Seferi dice: chi è che dentro di noi, che dietro di noi ci ordina di uccidere? Anche lì è proprio una suggestione demoniaca. Via via, via via. Non che con questo debbano essere innocentati, però l'autore, secondo i criteri naturalistici, rifiuta di prendere partito, ti dà il nudo fatto, ecco. Fa parte anche proprio dei canoni del verismo naturalismo, cioè non partecipa, c'è questo, ecco, te lo offre così com'è, poi noi facciamo queste riflessioni che stai facendo tu adesso, ma il racconto resta anche da un punto di vista di scrittura esemplare. Certo. Noi ci siamo fatti, appunto, abbiamo fatto diversi legami tra Verga e l'attualità, addirittura prima abbiamo parlato di suicidi, adesso lo stupro. Quali altri grandi fatti oggi, occupandoti dell'attualità, Guido, ti colpiscono, oltre a quelli finanziari che tralascerei, perché vedo che più che altro ti divertono? Cosa dici, scusa? No, ti eri distratto? No, mi chiedevo, poi credo che siamo anche arrivati un po' al termine della nostra serata, per salutare magari tutte le persone che hanno avuto anche la pazienza, la cortesia di seguirci fino ad ora. I grossi fatti di attualità del momento che ti colpiscono di più, tralasciando la politica e magari archiviando anche il tema dei suicidi, delle difficoltà economiche, appunto, che abbiamo affrontato prima. C'è qualche cosa che ti stuzzica particolarmente dal punto di vista intellettuale? Ma direi quasi tutto. A me appassiona il fatto umano in sé. Questo sì, sennò è il mio mestiere, è di testimoniare le cose, le cose che accadono. Anche. Le marionette come stanno? Certo. Le marionette come stanno? Dormono da tanto, ogni tanto qualcosa. No, ma un anno fa erano da queste parti. Un anno fa erano da queste parti. Dobbiamo riportarle? No, no, cosa abbiamo fatto un anno fa? A giugno forse dell'anno scorso. A giugno no, ma non erano marionette. Erano teatro, così. Ah, pensavo che mi... Ma no, ma è una fissazione. Io nel senso ho questa etichetta di marionettista, ma di teatro ne ho fatto. Ho fatto teatro di strada tanto, molto di più, ecco. No, vabbè, ci mancherebbe altro, non volevo ridurre... No, ma questo è così, era uno spettacolo che... Il piccolo ha più che graziosamente ospitato, eravamo un gruppo di attori, tre attori che facevano dei numeri di circense. Benissimo, anche noi allora abbiamo terminato il nostro numero di questo pomeriggio, abbiamo fatto veramente una chiacchierata non a 360 gradi, ce ne vorrebbero di più di gradi per descrivere tutti questi voli che abbiamo fatto, grazie al Piccolo Teatro e soprattutto a Guido Ceronetti. Grazie. Grazie. E buona serata a tutti. Grazie, Deborah.